Che peccato che sia un ricordo di più, cartolina, pure tu. Muore un po' casa mia e un amico va via, cartolina. Come piove, non ci credo perché fosse pioggia davvero, bagnerebbe anche te. Passa un altro corteo, un presepe d'eroi, non ci sono gli occhi suoi. Bella come una miss, ma che amore n'hai, cartolina. Quanto sole, non ci credo perché fosse sole davvero, scalderebbe anche me. Cartolina, non rispondermi mai, non ripeterò, non ricalcherò un'altra firma. Riscaldandoci un po', due dentro un paltò, cartolina, oppure no. Resta pure se vuoi, ma già vedo anche noi in cartolina. Pioggia e sole, com'è giusto che sia, finché il tempo è passato. La tua storia è la mia, cartolina. Piange il sole, finché il tempo e parole, la tua storia.